Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, vi parleremo di Horizon 2020, cominceremo da qui. Non sapete che cos'è? Un momento, adesso ci sono i titoli e poi ve lo spieghiamo. Horizon 2020, arrivano le indicazioni per 7 anni di progetti finanziati dall'Unione Europea. Vegetale sarai tu. Guai a chi pensa che le piante non si muovano, che non parlino e che non vedano. Lo chiediamo proprio a loro. Brain, istruzioni per l'uso. La mostra americana sul cervello sta riscuotendo un clamoroso successo al Museo di Storia Naturale di Milano. Wireless, scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi. Eccoci allora con Horizon 2020. E di che cosa si tratta? Allora, si tratta del nuovo grande periodo di finanziamento di progetti europei lanciati come sempre dalla Commissione Europea. Per parlare di Horizon 2020 questa sera ho qui con me Cristina Messa, rettore dell'Università Bicocca di Milano. Buonasera Messa. Buonasera. Lei fa anche parte di un team, insomma di una squadra del MIUR ministeriale che ha compito di, come dire, promuovere al massimo la partecipazione del nostro paese a questi possibili finanziamenti, no? Sì, una squadra collegata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, sì, che porta avanti la voce dell'Italia. Sì. In questi progetti. Che qualcosa, diciamo una mission che vi siete dati con particolare impegno questa volta, perché purtroppo, lei lo saprà meglio di me, non vantiamo una particolare efficienza nel riuscire a incontrare questi possibili finanziamenti, no? Invece questa volta mi pare che ci sia una determinazione forte a cambiare. Sì, l'obiettivo è quello di riuscire a avere un ritorno almeno pari all'impegno che il nostro Stato fa a livello europeo. Certo, questo sarebbe estremamente importante. Ambizioso. Sì, ambizioso, sì. Per noi è ambizioso, per altri paesi è routine. Ma senta, Horizon 2020, allora per il largo pubblico, è un programma di 7 anni, credo, no? Come... Sì. Come sì, dal 2014 al 2020. Mi pare che siano in ballo 72-73 miliardi di euro. Sì, esattamente. I settori in cui si va sono i più diversi della ricerca, no? Non c'è un qualcosa che resta fuori, insomma. No, sono inclusi tutti i temi di ricerca e tutti i modi di ricerca. Anche quindi questo. A questi tre pilastri fondamentali che spaziano dal modo classico, quindi la ricerca essenziale, la ricerca che un tempo si chiamava di base, ma non piace, l'abbiamo detto tante volte anche noi. La ricerca d'eccellenza, esatto. Ecco, fino ad arrivare alla tutte quelle ricerche dedicate invece alla soluzione o ad affrontare dei problemi sociali. E le chiedo questo, rispetto all'altro settennato che si è concluso appunto adesso, diciamo che appunto questi progetti stanno arrivando adesso le loro definizioni e quindi da gennaio si incomincia, c'è qualche elemento di diversità, c'è qualche enfasi maggiore che viene posta su certe aree, su certi settori? Sì, allora un'area è un settore che c'era già ma adesso è trasversale a tutte le aree, da quello della ricerca d'eccellenza a quella delle sfide sociali, è l'innovation, cioè questo è una l'innovazione, no? Quindi è un programma che cerca delle ricadute sul mondo del lavoro, sull'impresa, sugli aspetti di rinnovamento sociale, economico, sì, molto forte, con il forte coinvolgimento non solo della comunità accademica, dei ricercatori in generale, ma anche dell'industria. Quindi l'industria è chiamata, sia in termini di grande industria che di piccola e media impresa, è chiamata a partecipare in maniera più forte rispetto al più passato, consistente. Più consistente, con anche una semplificazione delle modalità di partecipazione, che chiaramente sono sempre abbastanza complesse. Sono un po' complesse, certo. Quindi c'è, come dire, un messaggio abbastanza chiaro: facciamo cose che creino posti di lavoro, insomma, sì, che aggancino la ripresa. Ecco, le chiedo però questo: di necessità, virtù, in linea di massima, i ricercatori o ricercatrici italiani sono diventati abbastanza esperti nel muoversi in questi progetti per riuscire a recuperare fondi. Il punto debole invece nel quale noi manchiamo, e quindi questa volta mannaggia dovremmo cercare di cambiare, che cos'è? È in quei progetti che vedono relazione azienda con ricerca? Dov'è il punto da cui, insomma, la zona grigia? La zona grigia è vero che i nostri ricercatori sono diventati molto bravi, però quelli che si dedicano principalmente a questo, insomma, già devi avere un'esperienza molto grossa per riuscire a vincere questi progetti. Quindi anche lì dobbiamo migliorare. Anche lì bisogna migliorare. E poi nelle collaborazioni fra università, enti di ricerca e imprese. E questo è un altro aspetto fondamentale, nel quale è fondamentale l'aiuto delle regioni. Perché l'altro elemento chiave, oltre appunto un coordinamento nazionale, è l'interazione fra il coordinamento nazionale e quello delle regioni, dove si possono formare un pochino più facilmente questi gruppi di lavoro misti, pubblico-privati, che sono fondamentali per applicare a questi bandi. Quindi il messaggio che lei dà e che voi tutti date, insomma, è che nel know-how della regione, delle strutture di governance della regione, deve proprio entrare una specializzazione nel capire tutte le varie potenzialità, aspetti, direzioni di questi progetti. Lì proprio bisogna migliorare. Sì, bisogna migliorare, bisogna collegare questa forma di finanziamento che è fatta su progetti con le altre forme di finanziamento comunitario, che sono quelle relative ai fondi strutturali. Cercare un collegamento un po' logico, conseguenziale, che metta a frutto le due parti. Insomma, parti, perché certo. Non possiamo fare tanta progettualità se non abbiamo poi le strutture per poterlo fare, no? E quindi bisogna far parlare i due tipi di finanziamento. L'altro aspetto che sarebbe ottimale, difficile da ottenere, è quello della specializzazione, cioè cercare di capire in Italia come potremmo arrivare ha una definizione di particolare specializzazione. Poi tutte le regioni fanno tutto, per carità, ma ci sarà quella regione che investe di più nei trasporti rispetto a quella che investe nell'energia, quella che investe nella salute, insomma un po' di differenziazione c'è già. E quindi far emergere anche delle nostre grosse potenzialità, insomma, che quindi perché sono più vincenti. Permette di fare massa critica e quindi permette di investire in settori più identificabili. Ce la faremo? Cosa dice? Come la vedi? Abbiamo così tante domande, ma io dico di sì, perché dobbiamo farcela. Questa volta bisogna farcela. Dobbiamo farcela, dobbiamo vedere un po' il futuro con maggiore positività, altrimenti già i giovani non sono positivi, se non lo siamo neanche noi. Cristina Messa, rettore, buonasera e buon lavoro. Grazie, vi ringrazio molto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco è andata in un posto ed è stata accolta così. Benvenuti all'interno del cervello umano, uno straordinario e complesso organo che ci permette di percepire il mondo e di reagire agli stimoli che incontriamo. Entriamo nella macchina più complessa dell'universo, il nostro cervello. Siamo all'ingresso della mostra Brain al Museo di Storia Naturale di Milano e mi trovo proprio davanti all'ingresso, davanti a me una tenda. Ora la apro e mi trovo immersa in un groviglio, in un tunnel di cavi elettrici, di migliaia di cavi elettrici che rappresentano la nostra rete di neuroni. Qui mi attende Stefano Papi, che è divulgatore scientifico di ADM, che è l'associazione didattica museale che gestisce i servizi educativi qui all'interno del museo e alla mostra. Ciao Stefano. Ciao a tutti e benvenuti all'interno del vostro cervello. La mostra Brain è davvero un viaggio dentro la macchina più complicata dell'universo. Immaginate di miniaturizzarvi e di seguirci all'interno di questa mostra. La mostra è un format americano, viene dall'American Museum of Natural History ed è stata importata qui al Museo di Storia Naturale. È divisa in sezioni e ci racconta un po' le varie funzioni del cervello, quindi come il cervello percepisce il mondo esterno, come percepisce noi stessi e come funziona. Andremo a scoprire mano a mano come tutto ciò è raccontato all'interno della mostra. Proviamo a raccontarlo per radio, è difficile raccontare una mostra, è bello venire a vederla con i propri occhi, ma noi attraverso qualche suono, qualche rumore, cercheremo di invogliare un po' l'ascoltatore a venirvi a visitare. Entriamo. Ora Stefano mi fa fermare di fronte a un'immagine, sento un suono piuttosto forte, l'immagine è di una ragazza sotto un ombrello con una forte pioggia e immagino di sentire il rumore di un temporale, Stefano. Sbagliato. In realtà quello che stai sentendo è il rumore di bacon che sfrigola su una padella. Perché abbiamo creato questo exhibit? L'idea è raccontare di come il cervello debba unificare tutti gli stimoli che vengono dall'esterno. Noi pensiamo di vedere, sentire, odorare con gli occhi, le orecchie, la bocca. In realtà quello che lavora è il nostro cervello. Varie zone del cervello sono collegate con i vari sensi, ma poi si uniscono e quindi l'informazione è tutt'una. Allora molto spesso si influenzano queste informazioni. Allora se tu vedi una foto con della pioggia e senti un rumore di questo genere, immediatamente associ a un rumore di pioggia e in realtà il tuo cervello è stato ingannato. Chiara, osserva un secondo queste due forme. Sono strane, prova a descriverle agli ascoltatori. Allora, davanti a me posso immaginare come se fossero due grandi lampadari. Uno è a forma di nuvola, se vogliamo, sembra tondeggiante, e l'altro invece è una stella di Natale gigante, un po' appuntita. Ecco, immagina di viaggiare in un mondo dove le forme hanno un nome. Incontri due abitanti di questo mondo, questi due lampadari, come li hai definiti, ti dico che uno si chiama Kiki e uno si chiama Buba. Prova a indovinare chi è Kiki e chi è Buba e poi mi spieghi perché. Allora, ci provo. Direi Kiki, quello appuntito, quello la stella, diciamo. E direi Buba, quello più nuvoloso, più tondo, più tondeggiante, più morbido. Bravissima, ma adesso sei in grado di dirmi perché? Assolutamente no. In realtà il 99% delle persone a cui faccio questa domanda risponde esattamente come te. Però se ci pensi, una forma non ha un suono, così come un gusto non ha una forma. Ma come dicevamo all'inizio, i nostri sensi sono tutti connessi tra loro. Di conseguenza funzionano insieme. Avete per esempio sentito dire un vino dal gusto rotondo oppure un discorso pungente. Ecco, sono tutti esempi di come, dato il fatto che il vostro cervello deve mettere insieme tutte queste informazioni si influenzano l'una con l'altra. Allora per noi Kiki è un suono acuto, appuntito in un certo senso, mentre Buba è un suono più rotondo, più morbido. Allora la maggior parte della gente dà a Buba il nome della forma più tondeggiante. Non mi chiedere però perché, l'1% invece è in disaccordo con questa teoria. Questo fenomeno si chiama sinestesia. In questa sezione Stefano mi ha spiegato in che modo l'ambiente esterno influenza il nostro cervello, ma tutto quello che succede all'interno, le nostre emozioni, invece il cervello come le vive? Ovviamente il cervello ha due porte, una porta esterna e una porta interna. Ci serve per capire quello che succede intorno a noi, ma ci serve anche per capire quello che succede dentro di noi. Quello che noi chiamiamo emozioni in realtà è controllato nuovamente, indovina un po', dal cervello. Ad esempio, pensate alle emozioni che voi potete percepire osservando il volto di una persona. Se voi incontrate qualcuno che è triste, che è arrabbiato, che è felice, riuscite a capirlo in qualche modo. Bene, questo si chiama empatia. In pratica siamo capaci di percepire dentro quello che l'altra persona sta provando. Questo perché, e ce l'ha insegnato Darwin quando studiò le espressioni nelle razze umane, chiamiamole razze fra virgolette ovviamente, è universale, cioè tutta l'umanità esprime le proprie emozioni allo stesso modo. Ad esempio la rabbia si esprime mostrando i denti e Darwin capì che era qualcosa di animalesco, di profondo. In tutto il regno animale così, tra l'altro. A cui noi apparteniamo, tra le altre cose. Però la cosa curiosa è che invece ci sono anche espressioni non verbali di tipo culturale. Per esempio tutti sanno che noi italiani, ad esempio, gesticoliamo tantissimo, mentre se parlate con un finnico, lui terrà le braccia lungo il corpo e non vi darà nessun tipo di informazioni grazie alle mani. Ecco, quindi si scopre che il cervello è da una parte una macchina che ha il prodotto di una lunghissima evoluzione e che si porta dietro il retaggio dei nostri antenati primati, ancora prima dei rettili, ancora prima di tutto il regno animale, dall'altro che si è evoluto in una società globale, quindi in ogni società si comporta in modo leggermente diverso. Sì, sì. Sì, sì. È completamente diverso. Yao Quen Yin Yue. Ya Quen Yin Yue. Niente, non ci siamo proprio. Zhou Yu Shi Jie. Zhou Yu Shi Yue. Allora, Stefano, ci troviamo di fronte a un exhibit che appunto dà dei risultati pessimi su di me. Però, se ci spieghi un pochino, qua di fianco a noi stanno provando il russo. Se ci spieghi che cosa stiamo facendo. Il nostro cervello è progettato per parlare. Il punto è che è progettato per modificarsi anche nel tempo. Bene, quando noi nasciamo non abbiamo nessuna difficoltà a imparare il linguaggio della regione in cui nasciamo, proprio perché all'inizio della fase umana il cervello è molto più plastico e quindi le zone adibite a imparare il linguaggio funzionano meglio. Più si diventa vecchi, non vorrei dire nulla Chiara, però semplicemente più si diventa vecchi, più queste zone diventano rigide e quindi è più difficile riuscire a modulare e simulare i suoni delle nuove lingue. È il motivo per cui è difficile imparare una lingua nuova da adulto. Però il cervello, che è una grande macchina, riesce in qualche modo a migliorare. Ad esempio, tra il tuo primo e il tuo terzo esercizio c'è stato un netto miglioramento. Se stessimo qua 15-20 anni, probabilmente riusciresti a parlare perfettamente il mandarino. No, tra l'altro qui è molto bello perché si vede proprio la forma d'onda e si capisce che, ecco, io dico una frase molto diversa da quella di Trevor, però in effetti la forma d'onda della terza frase è migliore di quella della prima, quindi un pochino sono migliorata. Il tuo cervello sta imparando il mandarino. Questo esperimento ci insegna che il nostro cervello è in continua evoluzione. Lo studio delle lingue ne è la dimostrazione, nel senso che quando abbiamo meno di 20 anni siamo molto più capaci di memorizzare e di imparare i concetti, le lingue, qualsiasi cosa. Perché cosa succede nel nostro cervello? Uno dei focus di questa mostra è che il cervello è qualcosa di plastico. Durante la vita cambia in continuazione. Si comincia a sviluppare già all'interno della pancia della mamma a una velocità incredibile. Pensate che dopo poche settimane dalla vostra nascita voi riuscite a produrre 500.000 neuroni al secondo, che è un numero incredibile, fino ad arrivare a un numero ancora più incredibile, perché i neuroni nel cervello di un adulto sono circa 100 miliardi. Se poi immaginate che ciascuno di questi riesce a fare qualcosa come 1000 connessioni con gli altri, riuscite a capire quante sono le configurazioni possibili. E il tuo cervello, ci faccia un rapido calcolo, quante sono? Sono 100 triliardi di connessioni, qualcosa di incredibile. È il motivo per cui è così complicato ed è il motivo per cui è anche così interessante. Tutto quello che pensate, i vostri ricordi, i vostri pensieri non sono nient'altro che diverse configurazioni della rete dei neuroni. In questo esperimento dimostriamo come funziona il vostro cervello quando entra in conflitto. Niente di più semplice di leggere a voce alta le parole che vedete alle mie spalle. C'è un orologio sopra queste parole. Io non vi chiedo però di leggere la parola, vi chiedo semplicemente di dire in che colore questa parola è scritta, partendo dalla prima della colonna B. Arancione, verde, nero, blu, rosso, viola, giallo, blu, arancione, nero, verde, blu. Ci avete messo 8 secondi. Adesso dovete fare esattamente lo stesso esercizio con la colonna di parole alle mie spalle. Vi ricordo di non dire cosa c'è scritto, ma il colore in cui è scritta quella parola. Verde, rosso, blu, giallo, nero, rosso. Sbagliato. Ah, nero. Arancione, viola, verde, blu, verde, rosso. Ci avete messo 15 secondi. Perché? Perché ovviamente le parole erano scritte con un significato, c'era la parola scritta giallo, ma la scritta era in verde, quindi un'informazione in conflitto. Il vostro cervello deve risolvere questo conflitto e quindi deve scegliere a quale parte del suo cervello dare retta e quindi ci mettete molto di più. Questo succede proprio continuamente, il vostro cervello deve scegliere come funziona, a quale parte dare retta nel momento in cui fate una scelta. Una delle funzioni più importanti per noi, almeno come percezione, è quella della memoria. Come facciamo a ricordare e come facciamo a ricordare delle cose che ci sono accadute poco tempo fa o cose che ci sono accadute ad esempio nei nostri primi anni di vita? Come funziona? Si vede Chiara che la mostra l'hai guardata bene, nel senso che hai già definito il fatto che di memoria ne esistono diversi tipi. Le due più famose sono la memoria a breve termine, diciamo ricordarsi cosa ci è successo oggi, e la memoria a lungo termine, quindi i ricordi profondi. Beh, è stato scoperto che per esempio un ricordo per sedimentarsi completamente nel nostro cervello ci mette 11 anni. che è incredibile. Fondamentalmente cosa succede? Quando ci succede qualcosa i nostri neuroni si configurano, fanno appunto queste connessioni. Dopodiché se non li riprendiamo, queste connessioni tendono a perdersi, diciamo così. È il motivo per cui studiare e ripetere è funzionale, perché ripetendo e rimemorizzando le cose di nuovo le connessioni si formano. Questo però è un percorso molto lungo. Quindi se in 11 anni noi non riprendiamo nulla dalla nostra memoria, molto probabilmente questo ricordo andrà perso per sempre. Ad esempio guardare una foto potrebbe in qualche modo riaccendere il collegamento? Assolutamente, o sentire un odore o una vecchia canzone. Vi sarà capitato magari di andare a casa delle vostre nonne e sentire quel curioso odore e che vi ha riportato alla mente qualcosa successo magari molti molti anni fa. E, è stato per esempio dimostrato in una persona che per una malattia aveva perso la regione della memoria breve, lui si ricordava tutto quello che gli era successo da 11 anni in prima e negli ultimi 11 anni non aveva nessun tipo di ricordo. E indovinate un po' chi sono le persone a che sembra, è sempre uno studio, avere la memoria più potente. I tassisti. Nel senso che immaginate voi quante informazioni deve immagazzinare un tassista, il nome delle vie, i numeri civici, i percorsi che deve affrontare. Bene, l'esercizio dimostra che si può migliorare la memoria a lungo termine. Loro tutti i giorni per 8 ore sforzano la loro memoria a lungo termine e quindi la esercitano. Il nostro percorso si conclude qui, nell'ultima area dedicata al cervello del futuro. Qual è il futuro di questa macchina straordinaria? In questa stanza si racconta proprio la frontiera delle neuroscienze, cioè come adesso le conoscenze umane ci permettono di indagare e in un certo senso di migliorare il cervello. Si parla per esempio dell'occhio bionico, si parla degli strumenti non invasivi per studiare il funzionamento del cervello e di come curarlo. E si parla anche di come potenziarlo. Per esempio sarà possibile tra breve connettere il cervello fisicamente a una rete di computer e quindi migliorarne la memorizzazione, ad esempio. Però si lasciano anche delle domande aperte al visitatore, nel senso che tutte queste tecniche possono essere usate per curare delle persone patologiche, ma possono essere anche usate sulle persone sane per migliorarne le prestazioni. Bene, è giusto farlo? È sbagliato? Anche pensando sul fatto che non tutti potranno avere accesso a questo tipo di tecnologie, ma solamente una parte della società. Non si può fermare il progresso, ma magari si può fermare 5 minuti qualcuno a fare una riflessione su quello che sta per succedere all'interno delle nostre teste. E quindi una delle domande aperte è: sarà giusto creare dei super cervelli bionici? La risposta a questa domanda, Stefano, io non la so, però chiunque voglia provare a porsi delle domande e a dare delle possibili risposte, lo invitiamo alla mostra. Certo, noi siamo qui, la mostra è aperta fino a aprile 2014, Corso Venezia 55, Museo di Storia Naturale di Milano. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Permette una parola, signor Carciofo? Vuol parlare con me? È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Io non sono per niente ciarliero, sa? E come può vedere anche dalle mie spine, non ho certo un buon carattere. Vorrei domandarle qualcosa e non capisco perché è così scorbutico da non volermi ascoltare. Sta lì tutto solo, anzi dovrebbe ringraziare il cielo se qualcuno la viene a trovare e l'aiuta a passare il tempo. Insomma, si può sapere cosa vuole? Quello che mi incuriosisce, signor Carciofo, è che nasca d'autunno mentre odia il freddo. Se ricordo bene, lei è originario dei paesi caldi, mi sembra proprio dell'Africa settentrionale. E poi, secondo Plinio il Vecchio, ha anche parecchie virtù afrodisiache, o perlomeno le aveva il suo progenitore selvatico, il cardo. Ah, signora, non parliamo dei pasticci che hanno fatto con le ibridazioni e gli incroci. M'hanno rovinato. Sono anni che pasticciano. Infatti ora ho tante facce, se di facce si può parlare, perché quella vera non la vede mai nessuno. A parte il fatto che loro dicono di averlo reso più buono, quale sarebbe la sua faccia nascosta? Il fiore, no? Ma quale fiore, scusi? Non si è accorta che sono tutto avvolto da brattee, insomma, da foglie modificate che stanno una sopra l'altra? Se invece di raccoglierci prima del tempo, tagliarci, metterci magari sott'olio, voi umani ci lasciaste maturare sulla pianta, alla fine vedreste le brattee aprirsi e mettere fuori un bel ciuffo di fiori violacei. Non è questo... E lei, che ha studiato sicuramente Darwin, dovrebbe saperlo, che voleva l'evoluzione. Invece noi i fiori non li possiamo fare mai, mai. E io che cosa sono a questo punto della mia vita? Non sono un fiore, non sono un frutto, sono un bocciolo inutile che non compie per niente il suo dovere verso la specie. vedi, è solo sentendo direttamente gli interpreti, in questo caso il carciofo, che vieni a sapere di queste cose, come il fiore che non si vede mai. Certo, la scelta di far parlare i protagonisti è sempre la migliore, la più efficace. No, poi alla faccia di chi dice che le piante non si muovono, non parlano, non hanno dei sentimenti, insomma abbiamo appena sentito che come potrebbero andare in onda. Questo è un estratto del libro Vegetale sarai tu. Punto esclamativo. Te. Interviste con le piante. Adesso diamo il benvenuto intanto a Mirella Delfini. Buonasera e benvenuta Mirella. Buonasera. Buonasera Mirella. Ecco, abbiamo introdotto il tuo libro, tu l'hai scritto insieme ad Eliana Ferioli, so che ci tieni, è una botanica, ti ha aiutato diciamo nella parte più scientifica del libro e vi siete immaginate delle interviste a delle piante, adesso abbiamo appena sentito il carciofo, poi ne sentiremo altre, ma come vi è venuto in mente di farle parlare? Cioè lo sappiamo che in qualche modo loro si esprimono col mondo esterno, però non proprio a parole, no? Ma guarda, adesso stanno trovando una maniera di trascrivere quello che sono gli impulsi che si ricevono e farli diventare parole, quindi alla fine sarà vero quello che ho scritto. Ma come ti è venuto in mente di far parlare il carciofo? È perché avevo già fatto parlare gli animali, allora Diana ha detto, allora lavoravamo ad Airone tutte e due, dice ma perché non lo facciamo con le piante? E poi sono passati 20 anni, allora sembravamo pazzi all'idea, adesso no, ne parlano tutti ora delle piante. Però è un esperimento molto riuscito, hai avuto questa sensazione sia con il primo l'intervista agli animali sia con questo, no? Molto riuscito, anzi sto pensando addirittura di far parlare di Atomè. È incredibile, ma è l'unico modo per farsi ascoltare. Vuoi sottolineare insomma questo aspetto della divulgazione un po' diciamo più scherzosa, un po' meno seria, che si prende un po' in giro? È favolistica fino a un certo punto perché è rigorosamente esatta. Io non dico mai una cosa che non è vera, però la dico, me la faccio dire in maniera divertente, insomma. È l'unico modo per farsi ascoltare. Io scrivo per i giovani, in realtà. Quindi questo testo lo consigliamo vivamente, effettivamente è molto bello, scritto molto bene, per chi volesse fare il regalo a un giovane, magari al primo anno, no, dei dipartimenti. Di materia scientifica, certo. Io vi devo dire una cosa perché è rimasta nel cuore. Non solo ho saputo che molti giovani si sono dedicati alle scienze dopo aver letto scienza favolistica, cioè la mia, perché poi in Italia sono un po' lottori tutti, e io invece cerco di ridere. Ma una signora mi ha telefonato e mi ha detto: io sono vecchia, sono solo al mondo da quando ho letto il libro degli animali e ho capito che pensano, sentono e vivono come noi. Io non mi sento più sola, sono felice. Ah, che bel messaggio. Ma non è bello questo, è una soddisfazione enorme. Ecco, per gli animali è più facile immaginare, no, un dialogo, certo, sì, con le piante no. Per le piante. Con le certo piante, che no. Per un girasole. Tu cosa gli chiederesti, Federico, un girasole, ad esempio? Se non gli gira la testa. Ecco, sentiamo. Pare di no. Vi ho sempre osservati con stupore, signor girasole. Mi spiega per cortesia come fate a fissare il sole con tanta ostinazione? E come fate a girare il collo, chiamiamolo così, anche se uno stelo senza farvi male? Lo fanno quasi tutti i fiori, e non solo i fiori. Ma quando lo faccio io, il fenomeno, chiamato eliotropismo, è più appariscente che in altre piante. Forse perché sono grande e giallo. Beh, un conto è vedere una distesa di minuscole pratoline con le loro faccette che guardano al sole. Un conto è osservare un intero campo di girasoli alti più di 2 metri e con il fiore che può avere un diametro di 40-50 centimetri. Beh, fa colpo! Infiorescenze, non proprio fiori, non si dia tante arie. Il suo è un capolino come in tutte le composite, no? Come fate a girarvi su quel povero stelo che di sicuro soffre? Non ho risposto perché in realtà il movimento riguarda solo i giovani capolini, ancora in boccio. E loro al mattino sono orientati a est, verso l'aurora. Poi durante il giorno si muovono lentamente verso ovest, seguendo il cammino del sole. Dal tramonto in poi compiono il movimento inverso. L'infiorescenza, una volta matura, e questo avviene quando si sono aperti i fiori esterni, quelli che voi chiamate petali, si blocca verso est e da quel momento guarda sempre il sole che sorge. Già, i giovani capolini, ma come sono fatti di preciso? Imitano la forma del sole. Un disco centrale scuro formato da minuscoli fiorellini disposti ordinatamente in una triplice serie di spirali, circondati da vistosi petali dorati come i raggi del sole. che poi sono anche i loro fiori, però modificati. Dopo la fecondazione, i fiorellini del disco centrale diventano semi. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa a proposito del girasole? Voglio dire che per esempio a me personalmente come fiore non è che mi piaccia tanto, però penso che tutto sia affascinante, anche questo fatto che guardino il sole, è tutto bello. Poi il singolo è una cosa, ma i campi di girasole sono affascinanti, no? Sono affascinanti, sono belli. Io mi sono uscita, per esempio, ho preso una storta, mi faceva male un piede, cercavo di guidare lo stesso. A un certo punto ho visto un albero giallo, splendente, con tutti questi rami che sembravano un fuoco d'artificio. Ho detto, ma che mi importa del dolore, la vita è meravigliosa. Oh, che bello, grazie. E ti è passata la storta. Mirella, per questi messaggi. E allora, dunque, direi di dare la parola questa volta all'Edera. Signora Edera, non è un po' infestante? Voglio dire, un po' invadente? Vedo che sale anche sui rami, vuole mangiarsi tutto quel povero pruno? Sta dicendo che sono una parassita? Che porto via la linfa all'albero e lo faccio deperire? Che lo uccido? Lei ha intenzione di denunciarmi, ho capito, ma non le darà ascolto nessuno. Chi vuole che si preoccupi dei boschi con la crisi che c'è in giro e tutti i guai che ha il governo? Quando c'è, tra l'altro. No, il sottobosco non lo ripuliscono. L'anarchia comanda, anzi oramai va anche di moda. Così io faccio i comodi miei e mi metto dove voglio. I boschi sono casa mia. Mi sembra che stia diventando casa sua tutto il mondo. Meno male che 7/10 del globo sono coperti dal mare. O vuole stendersi anche sull'acqua? La smetta di prendermi in giro e se non le piaccio, se ne vada. Ma non sarà che voi, Edere, vi innamorate degli alberi? State così avviticchiate. Dica la verità. Lo sa che lei è il simbolo dell'amore più appassionato che spinge gli amanti a unirsi in un abbraccio senza fine? Son qui tra le tue braccia ancora, vinta come l'Edera, diceva una canzone di Nilla Pizzi. Perché? Lei si innamora di tutti quelli che abbraccia per caso, del suo guanciale la notte? Certo, a questo pruno gli voglio bene, non dico di no. Ecco, brava, dica la verità. Fate un così buon lavoro, per esempio, quando coprite un po' le antiche rovine di Roma. Nessuno le cura, mentre lei forse riesce a impedire che si sgretolino ancora di più. Però io non me ne intendo di rovine, ma sa una cosa? Molti scienziati la difendono. Ah, e che dicono? Dicono che lei non è una pianta parassita, che non succhia la linfa dell'albero, ma lo utilizza solo come un supporto al quale si aggrappa con quelle piccole radici lungo lo stelo. Le chiamano radici avventizie, non so perché. Insomma, dicono che lei vuole solo andare su, verso la luce. E che altro dicono i miei difensori? Che lei, come tutte le altre piante, assorbe acqua e sali minerali dal terreno e non li toglie nessuno. Ammettono che a volte alcuni alberi possono crollare sotto il suo peso, ma dicono che si tratta di piante vecchie o malate. Quando cadono aprono spazi alla luce, così nasce una nuova vegetazione. Parlano del valore ecologico che ha l'albero caduto. Dopo la morte, i tronchi in disfacimento offrono rifugio e cibo a tanti piccoli esseri viventi e poi contribuiscono, degradandosi, alla formazione dell'humus. La natura rinasce senza fine, si rinnova sempre. Sono d'accordo con l'Edera, io ne ho una e ho il problema che quelli di sopra continuano a dirmi la tagli perché ci viene sul balcone, invece non capiscono qual è la natura meravigliosa di questa pianta. Ah, scusa, Federico regala loro il libro a Natale. Esatto, sì, ma lo stracciano, è gente che non capisce. Mirella, come hai fatto a tirar fuori tutti questi caratteri così un po' umani nelle piante? Come ti è venuto? È che lo penso, io non è che me lo sono inventato, è che io li, non so, mi sembra di sentirli così. D'altronde, effettivamente, se parliamo di personaggi, un girasole, un carciofo e un edera sono tremendamente diversi. Hanno dei tra caratteri loro. Obiettivamente diversi. Hanno delle personalità. Certo, fortissime, basta vederli e basta seguire quello che fanno, no? Bucaneve con un girasole, sono delle persone che vivono tutte in maniera diversa. Senti Mirella, dovrei avvisarli che sono andati in onda, eh? Il carciofo, cioè, immagino che tu abbia dei contatti diretti, sì. Una mail, no? Glielo devo dire, sì. Ai fiori. Certo, bisogna che li avvisi. Devo saperlo. Certo. Una radio in giardino. Grazie davvero Mirella. Allora ripetiamo il titolo del libro. Mirella Delfini ed Eliana Ferioli hanno scritto Vegetale sarai tu. Di Orme Editore, con i disegni di Pia Di Marco. Grazie Mirella e buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara, noi abbiamo fatto questo titolo, Wireless, sembrerebbe rimandare a rete e dintorni, ma invece poi viene Scienza, Amori e Avventure di Guglielmo Marconi. Perché? E uno dice, ma come fa a centrare Marconi col wireless? Ma è stato il primo wireless e ce ne parla Riccardo Chiaberge. Buonasera Riccardo. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Giornalista, collega, spesso ha scritto saggi anche di cose che appunto riguardano tecnologia. Attualmente sei anche direttore del libro dell'anno dell'Istituto Trecani. Allora, Wireless, Scienza, Amori e Avventure di Guglielmo Marconi, edito da Garzanti, e questo suo tuo testo pieno di aneddoti, di storie, quindi noi certamente non andiamo a fare una sintesi, ti facciamo un po' di domande. Allora, la prima che ci viene in mente è questa: la trasmissione via etere, quando Marconi alla fine dell'Ottocento e prima nei primi 5-6 anni del Novecento ci lavora sopra giovanissimo, questa trasmissione via etere, tu dici, ci ricordi che era un territorio addirittura occupato da ciarlatani, si pensava fosse una roba paranormale, no? Certamente eccitava moltissimo la fantasia anche dei cultori dello spiritismo, perché aveva qualche cosa di magico, no? Una specie di Harry Potter che usava dei fluidi invisibili per trasmettere dei segnali a distanza. Certo, lui poi era giovanissimo, ricordiamo che lui a 21-22 anni è dentro questo, no, grande inizio di questa tecnologia. Infatti nella copertina del libro c'è la faccia di un ragazzino. Che ha un'aria un po' da nerd, no, da secchione. E che potrebbe essere uno dei ragazzi di oggi che se ne vanno all'estero a fare un master oppure a fondare una loro startup. Poi vedremo che insomma non era proprio un nerd, ma comunque invece... No, non era un nerd perché non ha fatto studi regolari, però aveva la mentalità, diciamo, sì, concentratissimo, tenacissimo, no? Aveva un'idea fissa in testa, stava nella soffitta di casa a lavorarci notte e giorno. E veniamo alla vicenda dei brevetti. Nei primi anni dell'impresa di Marconi, questi anni sono avvolti in una vera e propria frenesia brevettuale, tutti volevano brevettare. Eh sì, è stata l'esplosione, insomma, della proprietà intellettuale, che prima non esisteva, è stato soprattutto con l'avvento di tecnologie come l'elettricità che hanno portato a questa esplosione, cioè ogni inventore cercava di proteggere la propria creatura, insomma, da possibili imitazioni. Certamente Marconi ne ha fatto un uso spregiudicato che per certi aspetti precorre anche gli eccessi, se vogliamo, della economia digitale, no? Quando per esempio, cioè, lui proteggeva praticamente tutto, compresa qualcuno scherzava, diceva ci manca solo che brevetti l'aria. Lui ne aveva messi in piedi credo una trentina addirittura, ma tutti molto rapidamente, in pochissimi anni. E certamente anche perché era assistito dai migliori avvocati e dai migliori esperti di brevetti che c'erano in quel momento a Londra, grazie alle liaison, insomma, alla rete di conoscenze della madre, della famiglia, della madre, del cugino. Che sono irlandesi, no? Lui è un irlandesi, sì, discendenti da una dinastia di distillatori di whisky, e tra l'altro appunto è curioso pensare che grazie al whisky abbiamo il wireless. Senti Riccardo, la trasmissione senza fili per un certo numero di anni, quindi quando proprio Marconi inizia, ma neanche non pochi, non va oltre i 30-40 chilometri, e c'è una vera e propria lobby che è antagonista, no? E che sostiene i cavi, la trasmissione via cavi. La lotta è tra coloro che dicono, no, che la trasmissione via cavi è l'unica che può andare lontano, e Marconi che guadagna 100 metri e 100 metri per volta in ogni esperimento. E certo, c'era una, diciamo, erano due i monopoli contro cui si scontrava Marconi. Uno era quello appunto delle industrie del cavo, delle trasmissioni via cavo, e l'altro era il monopolio delle idee, perché in campo scientifico c'era la convinzione che le onde elettromagnetiche non potessero andare oltre i 300 chilometri. Questo lo scrisse addirittura un grande matematico come Poincaré proprio alla vigilia dell'esperimento transatlantico, e fu immediatamente smentito dalla evidenza empirica. Cioè Marconi ci credeva pur non avendo basi teoriche. Certo, lì il principio era già pronto a funzionare a distanza, il problema era riuscire a mettere a punto delle apparecchiature che riuscissero a determinare, diciamo, la massima estensione di questo principio di propagazione. Certo, era questo certo. Il punto, credo, no? E infatti lui, insomma, mise al lavoro alcuni grossi esperti come Fleming, Ambrose Fleming, che fu quello che mise in piedi queste gigantesche antenne che permisero, e soprattutto questi condensatori che sprigionavano una enorme energia che consentiva il lancio di queste di questi treni di onde attraverso l'oceano. Senti Riccardo, sai come sono le ragazze, no? Anche se no. Sono giornaliste abili di scienza, il gossip perché c'è prima Chiara... dicevamo che non è che incarna proprio il modello del nerd, perché lui non era solo casa, tecnologia e brevetto, ma aveva anche l'occhietto lungo, no? Riccardo, tu a questo proposito hai scritto di una sua prima fidanzata, Josephine Bowen Holman. È stata la fidanzata collegata, insomma, al grande salto dell'Atlantico, no? Anche lei stava dall'altra parte dell'Atlantico, e a un certo punto sboccia questo amore. Lei voleva diventare addirittura ingegnere, voleva far parte della squadra dei suoi assistenti, e aveva delle aspirazioni di carattere tecnico. Però poi la vita frenetica di Marconi, che lo portava sempre in posti lontanissimi, inaccessibili, questa vite separate, a un certo punto anche lei non ne poté più. Niente. Lui era, finita non male. Era mai, non era mai disponibile, insomma. Però ecco, hai detto giusto che lui non era fino in fondo, lui è una personalità molto complessa, apparentemente glaciale, anaffettiva, in realtà capace di grandi passioni, e lo è stato tutta la vita. E lo è stato tutta la vita. Senti Riccardo, torniamo alle cose di scienza e tecnologia, ma questa storia con la Francesca Bertini, la diva del muto, di cui come lui si innamora questa? Pazzamente, gli si mette in ginocchio e poi finisce male, com'è? Beh, questa, insomma, noi abbiamo soltanto la versione di Francesca Bertini, non c'è una versione di Marconi, perché nonostante io abbia frugato in tutti gli archivi delle carte marconiane, non c'è un traccia. Una letterina. Vabbè, non è bello scrivere di un due di picche così, Riccardo. Questo è certo, c'è una certa differenza. Sì, appunto. Comunque no, lui chiaramente si era invaghito di lei, ma chissà, magari allo stesso momento ne corteggiava altre, insomma, e quindi sappiamo che era appena uscito da un flirt con una ricca signora romana, per cui così era. Era molto occupato. Lei aveva altre idee in mente, in quel momento aveva già trovato forse l'uomo della sua vita. E poi mi pare che tu dici che lui, quando si innamora della Bertini, è sposato, e lei è molto cattolica, dice: non potrei mai andare con uno che è sposato, lo scenario del divorzio per lei è inconcepibile. Sarà così? Sì, così lei scrive nel suo diario, però insomma questa è tutta da vedere. Una versione di parte, non sappiamo come siano andate esattamente realmente le cose. Riccardo, a un certo momento Marconi diventa un uomo molto ricco, perché con la sua lui fonda una società, la Marconi, no? Che è una società multinazionale, insomma, diciamo, per com'era allora, no? E diventa un uomo ricchissimo. Sì, con filiali in ogni continente, insomma, diventa veramente una multinazionale. Però ecco, gli inizi sono molto difficili, è spesso sull'orlo della bancarotta, insomma, cioè soltanto dopo la tragedia del Titanic che le sue fortune improvvisamente si rilanciano a livello globale, perché c'era molto scetticismo intorno alla sua tecnologia, intorno alla trasmissione senza fili, proprio per le ragioni che abbiamo detto. E dobbiamo tu dici che dalla tragedia del Titanic c'è stata una svolta. Lì praticamente i 700 che si sono salvati è grazie a una nave, il Carpazia, che viene raggiunta da un messaggio, se no morivano tutti, no? E certamente, se non fosse andato a dormire il telegrafista della nave che era nelle vicinanze, che probabilmente si sarebbero salvati molti di più, se non addirittura tutti. E difatti questo diede impulso alla diffusione della radio su tutte le navi, sia militari che civili, perché finalmente gli armatori, gli industriali, i finanzieri si resero conto che era una tecnologia indispensabile salvavita. Grazie Riccardo. Wireless, edito da Garzanti, scritto da Riccardo Chiabegge. Noi abbiamo semplicemente accennato a un centesimo delle storie che ci sono qua dentro. Ciao Riccardo e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Oh, siamo in conclusione, quindi tanti quasi auguri di Natale. Sì, Federico, a tutti. Cosa sono tanti quasi auguri? Non mi piacciono. Sono mi quelli che vengono prima degli auguri di Natale. No, non mi piace. Guarda che faccio i quasi auguri di buon anno, eh? Sì, adesso. Ma cosa devo dire? Buon bosone a tutti. Eh sì, allora buon neurone a tutti. Certo, perché no? Buon neurone. Sì, allora buon asteroide, sì. Buona evoluzione.